Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. ...1989, Milano. L'aria di maggio è fresca e Milano sembra quasi una bella città. Il cielo è azzurro. Sono solo 3 mesi che stiamo insieme, ma abbiamo tutte e due l'impressione che questa storia sarà diversa dalle altre. Siamo in auto, abbiamo appena finito la nostra prima discussione e stiamo in silenzio. All'improvviso la radio trasmette Baby Can I Hold You di Tracy Chapman. È il miglior modo per far la pace. Ma quelli della radio come facevano a sapere che avevo bisogno proprio di questa canzone qui? Mi chiamo Dodo Cipinti, ho 44 anni e vivo a Cusano Milanino. Lavoro in uno studio di post-produzione audio e mi piace tutta la musica che mi fa emozionare. Pronto? Ciao nonna! Ciao Matteo! Come stai? Bene, grazie, tu? Bene, bene, alla grande. Piove anche lì? Sì, piove anche qui. Benissimo, abbiamo la certezza che piove. Scusami, ti chiamo poco perché mi dimentico sempre che c'hai un cellulare tutto tuo adesso, nonna. E mi passa di mente, ti prometto che ti chiamo più spesso. Va bene. Senti, volevo chiederti una cosa invece, che non c'entra niente con sta storia qua, però concentrati un secondo. Visto che oggi in diretta parlo delle canzoni che hanno caratterizzato la vita di ognuno di noi. Ok, tu ti ricordi una o due canzoni di quando eri giovane che fanno un po' parte della tua vita? Ma mi fai una domanda che sono un po' incerta, Matteo. Dici, se mi ricordo, lo dico con la mamma, magari lei mi aiuta un po'. Allora mi dice che oggi parlano delle canzoni dall'inizio, di quando eravamo giovani. Esatto. Tu per caso hai qualche canzone che ti ricorda nella tua vita? Nella tua vita, nonna. Di quelle che ascoltavi quando andavi a ballare col nonno o alla radio. Te la ricordi Vivere? Vivere? Sì, te l'ha fatto. Vai. Vivere senza malinconia, ridere senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore. Sciogliela. Ecco, quello si fa. Ecco, ora sciogli, ci blocchiamo un po'. Nonna, ti mando un bacio, ci sentiamo nei prossimi giorni. Va bene, grazie. Ciao, grazie. Ciao, a te. Ciao nonna. Mia nonna ne ha trovata una sola di canzone che ha caratterizzato la colonna sonora della sua vita. Era Vivere di Bixio. Credo che fosse... Sì. Il figlio o il nipote di Bixio. Guarda la serie, diciamo robe che non sappiamo. No, però mi pare che fosse il testo fosse proprio di Bixio, non Nino, ovviamente, ma il nipote, il figlio, quello che è. Ed era Vivere. 349-238-6666. Ma soprattutto, per tutti quelli che in questo momento sono davanti a un computer e hanno Facebook, vabbè, questa ovviamente è scontato. Tutti quelli che sono davanti a un computer hanno Facebook in questo momento aperto. Andate sul profilo del programma che è Matteo Caccia, io sono qui. E mi postate 3 canzoni, o una o due, ma se riuscite, 3 canzoni che sono parte della colonna sonora della vostra vita. Vi ricordo, e poi le suoniamo più tardi, il profilo è Matteo Caccia, io sono qui. Tutto perché Dodo, che oggi è il protagonista della puntata, ha scritto un racconto che parla proprio di questo. Si intitolava La colonna sonora della mia vita. Lui ne cita di più e poi io ne citerò di più anche di mie. Oggi però vorrei proprio semplicemente fare una sorta di puntata jukebox in cui suoniamo tutte le canzoni che in qualche modo nella vostra infanzia, l'altro ieri, 10 anni fa, hanno caratterizzato la vostra vita e quindi ne sono in parte la colonna sonora. 349-238-6666 se volete scrivermele, ma è meglio se me le caricate sul profilo Facebook del programma, in modo che così le suoniamo direttamente e in diretta. Vi faccio un esempio: Laura mi ha scritto I canti dei nativi americani. Beh, Laura, eh? Paola, Vedi cara Francesco Guccini, Senza cornice di Alice e What's Up dei Four Non Blondes. Francesco, sicuramente tutte le varie melodie di Lupin III nella primissima versione, quella con Lupin in giacca verde. E poi Lorenzo dal 92, album Canzoni d'amore, Francesco De Gregori e così via. 349-238-6666 se avete da raccontarmi quali sono 3 canzoni che sono la colonna sonora della vostra vita, o anche 2 se volete, ma fate una cosa. Mandatemele sul profilo del programma, poi dopo ve ne leggo altre. Alessandro, Creedence Clearwater Revival, Pink Floyd, Eclipse e poi Franco Battiato, Summer on a Solitary Beach. Queste sono solo alcune delle canzoni che raccontano la colonna sonora della vita delle persone che ascoltano questo programma e che frequentano questo profilo Facebook. È Matteo Caccia, io sono qui, ma la storia di oggi è la storia di Dodo. Ognuno di noi ha la colonna sonora della propria vita. Ci sono quelle tre o quattro canzoni che te le ricordi sempre, anche a distanza di anni, perché hanno rappresentato qualcosa di talmente importante che ti rimangono incollate addosso come un francobollo. 1984, estate a Cavi di Lavagna, nel Golfo del Tiguglio. Sono seduto vicino a un jukebox, di quelli che con 100 lire ti suonano il tuo 45 giri in vinile, un po' rigato, ma chi se ne frega. Tanto lo ascolti in mezzo a bambini che giocano a biliardino, mamme con il cappello che ti passano davanti in costume e già ti scatenano i bollori. O il bagnino, che tra un belino e l'altro riordina gli ombrelloni e le sdraio. Oggi ho 300 lire in tasca, quindi fanno tre canzoni. Ma a me piace solo quella lì. La G9. E allora infilo le tre monete da 100 e schiaccio per tre volte gli stessi tasti. G9, G9, G9. Iniziano le note di Drive, dei Cars. E io mi metto lì, in un angolo, su una sedia di plastica. Chiudo gli occhi e ascolto. Io manco ce l'ho la patente, ho solo 16 anni, ma chi se ne frega. In questo momento sto accompagnando a casa la mia ragazza e tutto il resto non conta nulla. Wrong, 1989, Milano. L'aria di maggio è fresca, Milano sembra bella. Il cielo è azzurro, sono solo tre mesi che stiamo insieme, ma abbiamo tutte e due l'impressione che questa storia sarà diversa dalle altre. Siamo in auto e abbiamo appena finito la nostra prima discussione. Rimaniamo in silenzio. All'improvviso la radio trasmette Baby Can I Hold You di Tracy Chapman. È il miglior modo per fare pace. Mia moglie, l'ho sposata, abbiamo gli stessi gusti musicali e questa canzone comunque è piaciuta da subito a tutti e due. But you can say baby. Gennaio 1993, sono le 7 del mattino, sta suonando la radiosveglia. Ci sono mattine in cui non vorresti svegliarti, perché appena lo fai realizzi di essere vivo, e una morsa d'angoscia ti prende il cuore e te lo stritola in mille pezzi. Stamattina c'è il funerale di mio padre, è morto in 6 mesi e mi ha lasciato solo. Ora mi tocca affrontare la vita senza i suoi consigli, i suoi rimproveri, i suoi sorrisi. Non vedrà la mia laurea, non vedrà il mio matrimonio, non giocherà con i miei figli, non ci sarà ogni volta che ne avrò bisogno. La radiosveglia si accende e suona Vivere di Vasco Rossi. Vivere, vivere, anche se sei morto dentro. Luglio 2006. Le macchine suonano i clacson, le bandiere sventolano. Vedere la nazionale vincere i campionati di calcio, i campionati del mondo di calcio, è una fortuna che non capita spesso. Poi penso che per me è pure già la seconda volta. Nel 2006 ero a casa, mi ricordo che come tutti sono sceso in strada con una bandiera costruita assemblando tre lenzuola colorate. Invece nell'82 avevo 15 anni e ero al mare e sono salito sulla jeep di mia sorella e siamo andati in giro per il Golfo del Tiguglio e il giorno dopo avevo un mal di gola tremendo. Le radio continuano a mandare in onda la canzone dei White Stripes, Seven Nation Army. Non smetteresti mai di cantarla, ma siccome non mi piace neanche così tanto, sono contento in realtà che con le immagini migliori dei mondiali nei servizi della Rai ci siano le canzoni degli U2, ad esempio. One, nelle versioni di Bono e Mary J. Blige. Me la metto come suoneria al telefono. Ci sono canzoni che mi fanno piangere, e non so perché. One è in cima alla lista. solo la vita di Dodo è punteggiata dalla musica. Un po' quelle di tutti. A volte uno se le sceglie le canzoni che gli fanno da colonna sonora, a volte gli capitano. E comunque sia, ogni pezzo gli ricorderà un momento dell'esistenza, un periodo, un senso anche. Io poi credo che la maggior parte di noi, anche se ha studiato lingue a scuola e magari conosce l'inglese, non ascolta proprio tutte le parole delle canzoni americane o inglesi che ci riempiono le orecchie. Eppure c'è, secondo me, un lato del nostro cervello che capisce perfettamente. E quello che credo è che se ti canticchi una canzone è perché stai pensando quello che il testo della canzone più o meno dice, anche se ti sembra di non saperlo. Perché in fondo siamo un po' più intelligenti di quello che pensiamo. Non lo spero, insomma. Ma non sappiamo tanto bene dire a noi stessi quello che sentiamo veramente. Quindi io faccio sempre una cosa e vi suggerisco di farla. Ascoltatevi mentre canticchiate tra di voi e cercate di capire cosa vi volete raccontare. Anche la mia vita ovviamente ha avuto le sue canzoni fondamentali. Ci vorrebbero ore per tutti i miei mutamenti di gusto, no? Per tutti i miei 36 anni di suoni e di parole. Quindi adesso mi limiterò giusto a qualche brano grazie a cui sono cambiato e in qualche modo è un po' la colonna sonora della mia vita. Cominciamo quando avevo 7 anni. A 7 anni con il giradischi portatile arancione ascoltavo sempre una canzone che parlava di poesie, di fiori, di sesso e di feste che finivano. Si chiamava Gianna. La cantava un tizio che non sapevo nemmeno all'epoca che si chiamasse Rino Gaetano. Gianna sosteneva tesi e illusioni. Quando ne avevo 16 di anni, quello era un po' il mio periodo dell'hard rock e delle ballate malinconiche, tipo More Than Words. Non mi ricordo manco come si chiamavano. E sapete perché? Perché all'epoca non me ne fregava veramente niente di niente. More than words to show you feel that your love for me is real. Che roba brutta. Che momenti di radiofonia. Poi a 18 anni ho deciso di impegnarmi e sono diventato pessimista. Quindi ascoltavo sempre una canzone che parlava dei primi 7 secondi positivi nella vita di un bambino appena nato che non conosce ancora i problemi e non conosce ancora la violenza del nostro mondo. A 19 anni ero meno cupo e mi sono dedicato a una canzone in cui la protagonista racconta problemi e preoccupazioni, però si concentra nel rimanere sempre calma e determinata. Lo facevo di nascosto per non passare da femminuccia, perché la canzone è una canzone di Alanis Morissette. E poi finalmente sono cresciuto, più o meno. A 22 anni, mentre ascoltavo Bittersweet Symphony dei Verve, era il periodo in cui avevo capito che la vita era piena di vaccate, ma che dovevo affrontarla a viso aperto, magari camminando a testa alta su un marciapiede e andando a sbattere contro tutte le persone che incrociavo. E qualche anno dopo mi sono innamorato di roba molto più cupa, più scura, che arrivava dall'Inghilterra, che sembrava avere il ritmo del corpo, però arrivava da una cantina sporca, o io me la immaginavo, sporca, buia, in qualche edificio di Londra, dove probabilmente avrei voluto essere, magari in preda ad un karma comatoso. Coma, coma, Jamaica in Roma, coma, coma, Jamaica in Roma. E poi, da una decina d'anni a questa parte, fortunatamente i miei gusti sono cambiati. O meglio, si sono allargati, si sono un po' ammorbiditi. È un po' in merito dell'età. È un po' in merito di Tiziano Bonini. Ora ascolto un sacco di roba, anche se non mi piace tutto. Continuo però a non saper rispondere alla domanda: che musica ascolti? Un po' perché non conosco i generi musicali. E un po' perché mi sembra veramente una domanda stupida. Questo questo programma ha tutti i giorni una colonna sonora e la trovate sul sito di Radio 24, alla pagina Voi siete qui. Questo è un pezzo dei Mumford & Sons che si chiama Say No More. Andiamo però dalla persona che ci ha fatto venire in mente l'idea che ogni vita abbia un pezzo di colonna sonora, è l'autore del racconto di oggi, ed è Dodo. Pronto, Dodo? Ciao. Ciao, come stai? Bene, bene, grazie. Senti, Dodo sta per Edoardo, immagino. No, sta per Salvatore, ma è troppo lunga da raccontare. No, guarda, adesso la accorci e me la racconti un pezzo. No, in realtà è un soprannome che mi sono dato da piccolo, quando non sapevo pronunciare la parola uomo, e quindi io mi definivo un Dodo, perché insomma ero già abbastanza conscio del mio sesso. Va bene, ok. Senti, mi ricordi, Dodo, quanti anni hai? 44. Senti, tu lavori in uno studio di post-produzione audio. Quindi fate diverse cose che riguardano la musica. Sì, la pubblicità, tutta la parte audio della pubblicità. Infatti io mi occupo anche della consulenza musicale qui all'interno. Vabbè, quindi scusami, tu ti occupi di consulenza musicale e perdonami la domanda. Sì. E hai come pezzo di colonna sonora della tua vita un pezzo di Vasco Rossi, quindi è proprio una passione per Vasco Rossi. Sì, mi piace molto. E poi capita, appunto, in quel caso lì quella canzone è proprio capitata a fagiolo, cioè non sembrava fatta apposta veramente in quel momento. Lo immagino. Quella canzone, lo immagino, per cui è perfetta per un pezzo della tua vita. Senti, sì. Tu ne hai alla fine, adesso non ricordo se purtroppo abbiamo dovuto tagliarne un pezzo del tuo racconto, però sì. di canzoni ne hai messe 4 o 5 più o meno. Sì, sì. Oltre a quelle, visto che sei un consulente musicale anche, hai qualcosa di totalmente sconosciuto in mente in questo momento, che ti viene in mente o che hai usato di recente per qualcosa, per un lavoro da consigliare? Perché sai, il problema in realtà è che ascoltando diciamo il mainstream, no, delle radio che mandano in onda cose musicali, uno fa abbastanza fatica a crearsi dei gusti propri. Te lo dico perché io sono cresciuto con la mia mamma che ascoltava Rete 105 e c'era Gianni Riso che faceva le dediche. Non so, certo, se te lo ricordi. Me lo ricordo anch'io. Mi ricordo ancora il giorno in cui dedicò a mio padre per il suo compleanno tanti auguri a Tino di Romentino, e noi tutti in casa saltammo, e poi ci fu una canzone, non ricordo quale canzone. Insomma, il tutto per dire, ce l'hai un paio di pezzi? Noi ci proviamo, grazie a Tiziano, a mandare pezzi che non sono proprio facilmente reperibili. Tu c'hai un paio di pezzi da consigliarci al volo? No, guarda, in realtà no, nel senso che fare la consulenza per le pubblicità è sempre una cosa molto immediata, nel senso che ogni volta che mi chiedono di trovare una musica mi specificano un genere, per cui magari vado anche a cercare in generi che non ascolto normalmente. Ah, okay. E che magari non sono pubblicitari. Poi le case discografiche riforniscono le agenzie di pubblicità un sacco di volte. Ovviamente. Dimmi una pubblicità perché hai fatto consulenza di recente, un pezzo... Di recente ho lavorato più che altro su alcune campagne di Alfa Romeo. Non c'è la Nannini? Ultime, diciamo. Non c'è la Nannini in quelle, no? Non c'era? Gianna Nannini, no, mi sbaglio. No, Gianna Nannini no, era su Fiat. Ah, ok. Fiat. Vabbè. Sì, no. Perdonami, ho fatto confusione con la casa. Dodo, senti, ti ringrazio molto, ti devo salutare perché sono già in ritardo, ma grazie per il racconto e per l'idea, perché oggi è veramente un jukebox di colonne sonore. Buona giornata. Grazie. Ciao, Dodo, voi. Grazie. Ciao. Mille. Voi siete qui. Nella foto che ci ha mandato, Dodo è in riva al mare. È un uomo di 44 anni, come diceva giustamente, e si vede, sì. Ha i capelli grigi, grigi o brizzolati, molto molto corti. Ha la faccia simpatica. Ha la categoria di faccia non lunga, non tonda. Ha una bella faccia, insomma. Ha su un cappotto, è in riva al mare, è inverno, ma c'è un bel sole. Allora, diciamo che a mani basse vince decisamente Father and Son di Cat Stevens, che torna in maniera ciclica sia nei messaggi sia sul profilo Facebook. Ci sono alcuni messaggi divertenti, però. Allora, divertenti anche per le canzoni. Wild Boys dei Duran Duran, Renato Zero, Icaro, Enzo Di Trani, Tu che mi hai preso il cuore, Santuzza, La vita è adesso di Baglioni, Non è per sempre degli After Hour. Come fanno a stare insieme queste due? Scusami. Teo scrive: La vita è adesso di Baglioni, Non è per sempre gli After Hours, e poi Uragano la sera di Negrita, Parlami d'amore Mariù, Col tempo imparerò di Mia Martini, E poi Tapparella degli Elio e Ci vuole un'altra vita di Battiato. L'unica canzone che fa incazzare e piangere è Thunderstruck, Mettila se hai le palle, Marco. Marco, ma che arroganza, tu devi proprio avercene le palle per scrivere un messaggio così. Bravo, chissà che macchina hai. Cosa c'hai, un 3000 di cilindrata? Mi ricordo Montagne Russe, vabbè, questa batte tutti. Ma andiamo un attimo sul profilo del programma, che è Matteo Caccia, io sono qui, dove ce ne sono una marea di canzone. Alcune sono belle, altre un po' meno. Una delle più belle è decisamente questa qua. È live, però si capisce cos'è, no? Avete sentito la colonna sonora anche di un programma di Rai 3, credo, della sera, giusto? Vabbè, Patti Smith questa, Maurizio Merlot, Maurizio, il pezzo è Because the Night, ovviamente. Andiamo avanti, sentiamo invece qualcos'altro. Aspettate che cerchiamo, questo computer è veloce, è veramente un fulmine di guerra questo computer, è velocissimo. Eccolo qua, qua abbiamo, questa non so assolutamente cosa sia. Trespasser William, What of Me. A posto, questa mi sa di sola. Andiamo avanti. E invece qui, ragazzi, qui c'è veramente un pezzo che più o meno ha spaccato un po' tutti nella nostra infanzia, la manda Chiara. E il pezzo è questo qua. Una roba che più tamarra di questa ce ne sono veramente pochi. E anche il video direi che non scherza. Però ringrazio Chiara, perché Sweet Child of Mine, secondo me, è veramente qualcosa che in un modo o nell'altro ci ha segnato nel bene e nel male. Sentiamone un'altra però. Aspetta, fermi. Mi spiace un po' bloccare questo. Viene un po' male a bloccare questo assolo. Basta però. Chiuso. Mario mi scrive invece che il suo pezzo e anche la suoneria del suo iPhone sono i Van Allen. Ain't Talking About Love. No, Ain't Talking About Love. Questo pezzo è magnifico. Sì, devo dire che io avrei scelto sicuramente pezzi ancora più tamari di questi. 349-238-6666. È arrivata una mail, capita veramente di rado che sia arrivata una mail che sta a cavallo tra la puntata di ieri e la puntata di oggi. Ieri è stata una puntata che ha segnato, devo dire, le nostre coscienze e quelle di molte persone che hanno scritto, che riguardava la fiducia, riguardava il fatto di mettere in qualche modo la propria vita o la propria consapevolezza anche in mano a qualcun altro, per lo più uno sconosciuto. Ed è arrivata una mail di Simone che si intitola La mia musica nel bisturi di un chirurgo della mano, e mischiava veramente la puntata di oggi, che ha a che fare con la musica e con le colonne sonore della nostra vita, con la puntata di ieri, che aveva a che fare con la fiducia. Ciao Matteo, sono Simone, musicista e cantante di una nota cover band veneta. Lavoro però anche nell'azienda di famiglia, una piccola media impresa di quelle che vanno tanto di moda sulle bocche degli economisti, dove si lavora tutti i giorni, dall'alba fino a sera tardi, e anche il sabato, e talvolta anche la domenica. Un sabato mattina, proprio un sabato nel quale avrei avuto un concerto e presentazione del mio primo disco di canzoni inedite, scritte e composte da me, mi sono amputato due dita su un macchinario dell'azienda. Per fortuna perfettamente in regola, ma non per questo meno pericoloso. Siamo andati all'ospedale del paese vicino, un ospedale dove non c'era reparto specializzato di chirurgia plastica, tantomeno quello di chirurgia della mano. Forse non mi importava di perdere le dita o parte di esse, piuttosto piangevo per non poter più suonare, per non poter più coltivare quella mia passione, quel sogno di sempre. I medici chiamarono un ospedale vicino, quello di Padova, per informarsi se il chirurgo plastico specialista in chirurgia della mano era di turno di sabato e fosse presente. Lui, ovviamente, non c'era. C'era però lo specializzando più talentuoso e promettente di tutta la regione, ed era di turno proprio quel giorno. Io ovviamente questo non lo sapevo. Pensavo fosse un normale specializzando, bravo e volenteroso, ma non così geniale e volitivo. E nonostante la mia inconsapevolezza, misi la mia anima musicale nelle sue mani. Misi le mie mani nelle sue. Durante l'intervento ero sereno, senza motivo peraltro, senza capire perché. Ecco, sì, fui fiducioso. E dopo 7 ore di intervento ero stanco, eppure ancora più fiducioso. Sai com'è finita? È finita che l'11 giugno del 2011 è uscito il mio primo disco da solista, suonato, composto e scritto da me, nel quale ho suonato pianoforte, tastiere e chitarra. Insomma, la mia prima colonna sonora. Non ho ancora compreso da dove mi sia giunta la fiducia illimitata per quel medico sconosciuto. Eppure, io sono qui. Simone. Io vi giuro che lo farei tutto il giorno questo giochino del sentire quali sono le colonne sonore delle persone che stanno scrivendo su Facebook. Questa, ma cos'è? Questa dovrebbe essere Crocodile Rock di Elton John. Ah, ma è Crocodile Rock. È la caricata Gloria, ma ce ne sono un sacco di altre. Allora, è da stamattina che penso alle mie tre canzoni. Ci sono stati due combattuti ballottaggi nella mia testa, ma sono arrivata alla conclusione. Una è... aspetta che fermiamo Elton John. Fermato. Una è Bocca di Rosa, nella versione di André. L'altra è End in My Pocket, come per me, Alanis Morissette. E poi I Am Mine, dei Pearl Jam, che è un'altra roba bella pesa, ma una canzone bellissima. E poi Chiara De Marco ci libera tutti con questa. Un attimo, perché il video c'è un'introduzione. C'è uno che arriva a piedi, mette dei soldi. Anzi, mette un disco. E il disco parte. Con calma. Facciamo solo puntate così, eh? Solo puntate in cui, come dice il nostro vecchio amico, suoniamo il web. Questi sono gli Oasis, Chiara De Marco. E poi Chiara ne ha caricato un altro. Fermiamo anche lì, Noel. Oh, grazie. Questo pezzo che io non conosco è sempre di Chiara. Ah, ma certo. John White, Missing You. Questa roba me lo, questa è roba che se stai sotto è la fine. No, non ti rialzi più. Grazie a Chiara. E poi oggi era arrivato, vorrei chiudere oggi questa puntata con questo messaggio qua, con questo messaggio che è arrivato da Francesca. Toglimi la base perché qua è proprio, oggi va così. Sì, dovrebbe partire, non parte. 14 anni. Le vacanze estive passate dall'amichetta del cuore nella sua casa affacciata sul mare. Mi pettinavo i lunghi capelli accompagnata da queste melodie impresse nel nastro avvolto in una cassetta musicale, chiusa dentro il mio Walkman Sony giallo da cui non mi separavo mai. Bisognava farsi belle, anche se l'unico vezzo era quello di sistemare ordinatamente due fermaglietti nella parte alta della testa e liberare il viso da quella massa ingombrante di capelli, girarsi le ciglia con il giraciglia imbrattato di mascara della mamma della stessa amichetta, perché da lì a poco, in spiaggia, avrei incontrato quel ragazzo che mi faceva girare la testa e battere il cuore. Allora, visto l'entusiasmo per questo nuovo giochino, facciamo che per tutto il fine settimana, se avete voglia, se siete a casa, visto che piove e non è il caso di uscire, usate il profilo di questo programma, che vi ricordo è Matteo Caccia, io sono qui, per caricare una, due o tre delle canzoni della vostra vita. Ripeto, caricate il video, ne basta uno o magari anche tre. Ci sono cose più importanti da raccontare, io però ringrazio in questo momento Stefano D'Andrea, Paolino Corleoni, Tiziano Bonini e Margherita Hina. La storia di oggi era la storia di Dodo, parlava della colonna sonora della nostra vita. Quella di lunedì invece è la storia di Alessandro e parla di disciplina. Eccoci, siamo alla fine. Arriviamo al traguardo in Piazza Verdi. Trascino un piede dopo l'altro e lo passo con il mio cronometro che dice 3 ore, 36 minuti e 5 secondi. La soddisfazione c'è, ma lascia subito spazio alla stanchezza. La durezza delle gambe, la fame, la voglia di una doccia calda sono più forti di tutto il resto. Tanto so che avrò modo poi, già la sera stessa, di ricordare questa corsa almeno per un anno. Fino alla prossima.